siamo qui alle officine Babilonia di Cosenza per il laboratorio dedicato al colore bianco organizzato dalla casa editrice Coessenza. Vi ricordo che potete seguire e partecipare al laboratorio attraverso la radio, ovvero transizionedifase.org. Seguite la radio, entrate in chat, inviate i vostri scritti dedicati al colore bianco sotto qualsiasi forma a voi piaccia e facendo uso della nostra mail, ovvero tdfxlaboratorio@gmail.org. Dunque benvenuti al secondo laboratorio che Transizione di Fase segue per Coessenza, e ora abbandoniamo la mia voce che probabilmente avete già ascoltato troppo e diamo fiato finalmente alla letteratura, la letteratura di Coessenza. Siamo qui con un bellissimo braciere e ci stiamo riscaldando in maniera anche un po' massonica fricchettona meglio, e quindi chi è il primo? Ecco, introduce Emanuela. Grazie Maria. Allora, introduco con una piccola storia, piccolissima, che vuole essere un modo per capire da dove viene il nome proprio della nostra sigla, visto che oggi è il laboratorio dedicato al bianco. In epoche ormai lontane, le foreste della Sila dovevano essere immense, talmente rigogliose e magnifiche, ancor più di oggi, da suscitare stupore e meraviglia nel visitatore. A quei tempi, infatti, decine di migliaia di ettari erano completamente immersi nella penombra di un'antica selva popolata da alberi di proporzioni colossali. Così, quando i primi coloni greci penetrarono sull'altipiano, talmente grande fu l'impressione causata da tanta verde possenza che diedero a tutta la regione il nome di Ila, bosco. Analogo fu lo stato d'animo dei romani, ed anche per loro il massiccio divenne presto noto come Silva, cioè il bosco per eccellenza, che era l'abitazione prediletta di Silvano o Silano, il mitico dio della foresta, figlio del Crati, principale fiume della Calabria, al quale, secondo Eliano, secondo secolo d.C., si consacrava la pece, un estratto aromatico della resina dei pini, e si sacrificavano armenti su altari ornati di rami di pino e di abete. E la foresta per antonomasia era appunto la Sila, il cui toponimo deriva dall'unione di greco e latino, dallo stupore per tanto verde e per le sue divinità, condensato nelle parole Silva e Ila. Non so se vi è piaciuto, però a me sembra un modo carino di iniziare, perché voglio dire, pochi sanno che la Sila in effetti è mitica, no? È un po' mitica, e voglio dire, i greci e i romani, ecco, lo sapevano. Io che sono tra l'altro una sciatrice amante della Sila, vorrei che fosse fosse più apprezzata da, prima di tutto, da noi calabresi, che sì, la calpestiamo, ma secondo me poco la sappiamo, ce la sappiamo godere, la sappiamo apprezzare, e poi pure dal resto del mondo, che invece forse non la conosce neanche. Vuole venire qualcun altro? Altrimenti, per rompere il ghiaccio, c'è un primo testo che ci è arrivato via mail. Leggiamo questo, magari in modo da dare spazio all'ispirazione, insomma. Allora, un attimo che lo cerchiamo. Allora, ecco qua. Questo testo ci è stato inviato da Anna De Blasi e parla di tutte le sfumature del viola attraversate da una sottile linea bianca. Oggi ho comprato un rossetto nuovo, viola, come quello acquistato la settimana scorsa, ma non è proprio uguale, un po' più chiaro. Sono le sfumature che fanno la differenza. Il mio colore preferito è sempre stato il nero. Un mio amico pittore, di colori se ne intende, mi ha detto che il nero, come il bianco, non è un colore, e così l'unica certezza che avessi su cosa realmente mi piacesse è svanita nel nulla, nel limbo del non colore. Ma gli amici devono proprio sempre mostrarti le loro competenze e aprirti gli occhi? Ma io non mi perdo d'animo, ho ripiegato sul viola, e di fronte alla domanda, che prima o poi esce in una discussione scientifico, qual è il tuo colore preferito? Nessuno potrà dirmi il viola non è un colore, e avrò così anche io una certezza, seppur misera. Ma da qualche parte si deve pur iniziare. I colori sono come le anime, ognuno ha la sua, ed ogni anima ha un suo colore. La mia è viola, come i miei pensieri, cupi ed intensi, come il cielo della Lombardia, di quella terra che calpesto, ma che non è la mia, e non lo sarà mai. Io vivo nella provincia lombarda, ma la mia anima è rimasta in Calabria, ed è lì che resterà sempre, mi aspetta. La Calabria è terra di migrazione, dilaniata e sconfitta, terra di conquista, terra di sole, mare e vento, terra dimenticata, predata, oltraggiata, ferita, umiliata, terra che aspetta il suo riscatto. Ma la Calabria è anche altro, la campagna con i miei nonni, una voce mai dimenticata, che mi racconta le avventure di Rina e Rana, la mia favola preferita. Un sussulto nell'anima nel rivedermi bambina con mio padre, che mi prende per mano, fare acquisti a Corso Mazzini, guidandomi verso l'ennesimo e desiderato peluche. La Calabria è lo sguardo verde e intenso di mia madre. La Calabria è il sorriso dei miei 20 anni. La Calabria è la terra dalla quale fisicamente mi sono allontanata, ed è stato come quando ti strappano una parte di te. È stato tagliare, con dolore, il cordone ombelicale. E che freddo quel giorno, un freddo che non avevo mai sentito prima, e nessun cappotto, nessuna sciarpa, nessun cappello può placare quei brividi, e non ci vuole coraggio per andarsene. E non è vigliaccheria andarsene, è la vita, semplicemente, banalmente, retoricamente la vita, che ti porta per strade e terre lontane, la vita che va inseguita, rincorsa sempre, anche se l'anima si smembra e non ha più un unico colore, ma tutte le sfumature del viola, attraversate da una sottile linea bianca, il bianco asettico di questo spazio infinito e vacuo, il bianco di pomeriggi avvolti dal silenzio e dal passaggio innevato, mentre, mastico nebbia e malinconia, l'anima si smarrisce. Il bianco è l'incertezza di mondi che sfioro ma che non riesco a raggiungere. Il bianco è lo spazio dove si annidano una miriade di possibilità. E il mondo non è più dietro la finestra, è oltre, nel bianco della neve, nel grigio della nebbia, nel viola della mia anima, nell'afflato di un ricordo indelebile. Il bianco è il qui ed ora del presente. È il colore che scandisce i miei giorni, con buona pace del mio amico pittore. E la neve non è più solo freddo, ma la mia nuova coperta di Linus. È in essa che ritrovo la mia infanzia e i relativi entusiasmi di una bambina felice che troppo presto ha lasciato il posto ad un'adulta eternamente insoddisfatta. È quella bimba che ricerco nella neve e nella nebbia lombarda e so che deve riemergere. Non è sparita, è solo nascosta in qualche parte della mia anima, tra sfumature viola, carico e sogni rosso-porpora, e striature di bianco come la mia innocente carnalità, come la mia perversa e fragile malinconica femminilità, come un bacio intenso, ancor più delle onde del mare che si abbattono sulla spiaggia bianca, bianco come lo sperma del mio viso, a volte oltraggio, delimitazione di un territorio, possesso, altre amore, compimento tangibile, caldo, concreto, di un sentimento, anche lo sperma ha le sue sfumature, bianco come il dentifricio che uso per lavarmi i denti, odierna psicosi, come se lavandoli in continuazione potessi togliere il sapore della nicotina, delle troppe sigarette che fumo, non più piacere, non più vizio, sapore acre, come quello della nostalgia, illudendomi, attraverso questo rito quotidiano, di eliminare il tabacco anche dai polmoni, e dall'anima bianco come la rabbia tacita, non espressa, non urlata, soffocata, e quindi in colore, come le mie paure confuse con il bianco ghiaccio della brina e delle mie lacrime, bianco come la felicità, in sapore, in colore, inesistente, sospensione della realtà, attimo che fugge, adrenalina abusiva. E con questo si conclude il brano che ci hanno inviato. Vi ricordo sempre che siamo su transizionedifase.org per il laboratorio di scrittura creativa della coessenza dedicato al bianco. Io volevo leggere un racconto che ci ha mandato oggi pomeriggio sulla nostra mail della coessenza Mauro Nigro, che non poteva partecipare al laboratorio, ha mandato questo suo scritto. Capita spesso che magari persone che non possono partecipare però ci inviano via mail oppure mandano tramite qualcuno di noi qualcosa da leggere. Atonale. non avrei mai immaginato fosse così. Tutti immaginiamo qualcosa al riguardo. È naturale, è istintivo, credo. Al di là della nostra educazione, è una specie di passaggio obbligato, conscio o inconscio che sia. Ma tutta la mia fantasia avrebbe potuto partorire tranne questo. Sarà per l'iconografia legata al luogo in sé, ben diversa da cosa che vedo ora. Sarà per le parole che solitamente si associano a tutto questo: candore, purezza, quiete. Diciamocelo, sarà stata una furbizia o un errore comunicativo, ma questa scelta è comunemente associata alla parte avversa. Non che mi meravigli di essere qui, non ci ho mai creduto razionalmente, non ci credevo. Non ho mai avuto nemmeno un minimo ripensamento, nemmeno in extremis, nemmeno nel momento cruciale come fanno tutti. Io no. Quindi non c'era nessun motivo valido per scansarmela. Insomma, diciamocela tutta, me lo merito. Ho fatto cose che definire orribili e riduttivo. E ne ero anche cosciente. Ho calpestato chiunque, goduto ed approfittato del male altrui, oppure navigato nell'indifferenza. E non occasionalmente, come a tutti capita, ma come stile di vita. Quindi merito di essere qui. Ma mi aspettavo tutt'al più creature orribili, forconi, colate incandescenti, disserzioni, sodomizzazioni devastanti, strazianti tormenti a testa in giù. Mai avrei pensato che l'inferno fosse essere abbandonati nel bianco assoluto, afono, senza confini, con tutte le sensazioni e la coscienza di sé addosso. E la sorpresa. Questa sorpresa che rende inquieti ed attoniti, e che porta continuamente a farsi quella domanda: cosa succederà alla fine dei tempi? Spero che ci sia una fine dei tempi. Vi ricordo sempre che siamo su transizionedifase.org e seguiamo il laboratorio di scrittura creativo dedicato al bianco. Per chiunque volesse può inviare i propri scritti ed entrare in contatto con noi attraverso la nostra chat. No, stacchetti musicali mi chiedono, non ce ne sono, perché vogliamo inficiare quanto meno possibile il laboratorio con la nostra invasiva presenza. E, ecco un altro volontario che si avvicina alla postazione forzata che per motivi tecnici abbiamo dovuto allestire. Mi tolgo subito il peso. Vi spiego perché sono qui, perché voi non mi conoscete, non... sono venuto a leggere due cose. C'entra il bianco per caso, nel senso che ho scritto comunque, però ha bisogno di un'introduzione. Allora, vi leggo questo qui, che è l'introduzione, così capite il contesto, insomma, di cosa stiamo parlando. Poi vi leggo due pezzettini di bianco che per caso. 8 settembre 1943, armistizio. 9 settembre 43, una squadriglia di aerei americani insegue i tedeschi in ritirata. Credono di vederli accampati a Pedronà. Li attaccano. Muoiono due soldati italiani. Perde la vita un bimbo di 6 anni. Era contento di vedere gli aerei così vicini. Correva per mano a due giovani donne. La prima raffica sollevò molta polvere e lui non vide altro. Le bombe cadevano, la gente scappò fuori in campagna, nelle caselle per alcuni giorni. C'era molta paura e per pensare ad altro, per restare svegli, ognuno parla e parla, racconta un po' di sé. A migliaia moriranno in Italia sotto i bombardamenti, sotto il fuoco amico, spesso solo numeri nei libri di storia. Questa è solo una delle tante, minuscola, marginale, ormai quasi dimenticata. Non ci sono. Ho trovato un pretesto per scrivere, forse perché una delle due donne col bambino per mano diventerà mia madre, e nei vaghi ricordi dell'infanzia, mentre quel mondo lontano spariva, sentivo fra le tante questa storia. Sono vari racconti e questo qua è uno dei tanti. Mi fermai nuovamente, Urne Zamaria. Lo conoscevo bene, quel profumo di frasche bruciate, quel calore asfissiante di un forno che arde. si vedevano a tratti brillare occhi rossi e sudati di donne nella nera penombra interrotta, fatta a pezzi da lingue di fuoco. Era un lavoro duro, metodico, con un ritmo misurato dei gesti: piegarsi sul fascio di frasche, prenderne una manciata, avanzare di un passo e lanciarla nel fondo del forno. Sempre avanti così, sudando e asciugandosi il volto ogni nuova bracciata, fino al magico istante in cui si sentiva Yankia, la pietra è bianca, l'alito è giusto. Una pietra murata nella cupola di mattoni fungeva da termometro. Per cuocere il pane si aspettava un certo colore di bianco. Per i taralli o altri dolci o castagne il bianco era diverso. Spesso si accendevano vivaci discussioni sulla bianchezza della pietra. Alcune ragazze più giovani, che seguivano con molto interesse i gesti sicuri di Zia Maria, esprimevano opinioni sul colore della pietra, citando, come dotti accademici, antiche gesta di eroine passate. Mi fa impressione il fatto che ci sia la radio. È la prima volta e che ci pone il problema col quale dovremmo avere a che fare delle pause, no? Perché prima noi ci concedevamo lunghe pause tra un racconto e l'altro, invece la presenza del microfono ci spinge, no, a dover ragionare meglio sulla forma che dobbiamo assumere, no? Anche questa storia dei colori è una novità di qualche mese, no? L'ideale è quello sempre di cambiare rimanendo uguali, no? E quindi non lo so, è difficile perché eravamo abituati appunto a leggere e poi a fermarci, a commentare poco, sì, però sì, comunque c'era un minimo, no. Però è una suggestione nuova, ecco, con la quale secondo me noi dobbiamo fare i conti, non necessariamente pensare di escluderla. Basterebbe comunque, secondo me, fra una lettura e l'altra mettere un po' di musica, no? E almeno si rilassano anche chi sente, perché ti rendi conto, senti La prossima volta magari, dai, ormai è così, dai, sentiamo la musica. E adesso invece sentitevi questo: si sentiva nell'aria come un rombo di tuono continuo, sempre più vicino. La signora si alzò e corse alla finestra per guardare verso il cielo. Sono aerei, sono tanti. Aurora saltellò: che bello, che bello, andiamo sul terrazzo, dai mamma, andiamo. Attraversammo correndo almeno 3 stanze e ci trovammo sull'ampio terrazzo che dominava l'intero abitato, con il grande edificio del mare laggiù. Aurora era raggiante e guardava rapita gli aerei vicinissimi. I vetri della casa vibravano, sua madre aveva lo sguardo attento e preoccupato. Gli aerei cominciarono in fila a girare intorno a una zona precisa, Curinello, Acquavona, e improvvisamente iniziarono a sparare. Si sentivano chiarissimi i colpi delle mitraglie e in poco tempo si levarono in alto colonne di fumo. Eravamo paralizzati dal terrore. Si sentivano urla scomposte, subito spente dalla sirena d'allarme accesa. Aurora scoppiò a piangere, anche la madre mostrava una certa insicurezza. Girava sul terrazzo consolando ora la figlia, ora segnandosi il petto, smarrita. Anch'io non sapevo come muovere. Seguivo il lento girare degli aerei e guardavo atterrito le fiamme che bruciavano il cielo. «Curriti, curriti, andiamo in cantina!» urlò la serva affacciandosi fuori con la voce più acuta della sirena. La seguimmo senza dire parola e restammo così, ammutoliti, rannicchiati fra botti di vino per un tempo che non finiva mai, fino a quando il rumore si fece lontano e la sirena spirò. La signora fu la prima a destarsi. Si pulì con un gesto vezzoso il vestito di seta intarsiata, si levò e ci porse la mano. «Sembra tutto finito, andiamo fuori a vedere». Risalimmo per uscire sull'ampio piazzale pieno di gente spaventata che si muoveva come un formicaio arremurato, disordinatamente. Parlavano tutti insieme e tutti ascoltavano tutti, non si capiva niente, solo smarrimento. Pensai a mia madre, salutai Aurora e la mamma e corsi giù a capofitto tra galline, maiali e vinelle deserte. Anche davanti al forno non c'era nessuno. Forse erano in mezzo alla folla del palazzo, scappati negli orti qua intorno. Avvicinandomi a casa, comincio a chiamare: «Mamma, mamma!» Ma nessuno risponde. e il mio urlo si perde fra le pietre dei muri. Salgo a due i 38 gradini che mi portano dentro. Tiro il filo, apro la porta, vedo Bianco e mi prende alla gola un odore pungente di patate e pipazzi bruciati. La pausa la facciamo noi e parliamo. Ma tanto una piccola cosa, giusto per transizione di fase, non vuole creare un programma, vuole solo ascoltare quello che dite voi, e quindi fate finta che noi non ci siamo. Noi non esistiamo, vogliamo solo ascoltare quello che si dice di norma. Leggo un racconto io che di Emilio Nigro, che me l'ha mandato oggi, e che vincitore di un premio, ma io voglio che sia lui a dirlo nei prossimi giorni di che premio si tratta, come qualcosa di importante. Più che vincitore, mi pare che si tratti della fase finale di un premio importante. Però ripeto, non gliela voglio dare sta soddisfazione, questo lo deve dire lui di persona. Mi limito a leggervi quello che mi ha mandato oggi pomeriggio. Si titola Facebook. No, non ti chiamo, mi lamenterei e odio lamentarmi. Rispose immediatamente, non senza un pizzico di orgoglio. Avevo 6 anni, era un sabato di Pasqua, un sabato santo, e per il paese andava la processione delle statue dei misteri. Fino a 20 anni ho pensato fossero le statue dei mestieri. Sul Cristo in croce c'era quella strana scritta. Ci teneva che partecipassimo, Henry, io e mio fratello, mascherati, perdonate la profanità del termine, da piccoli cristi che portano la croce. Un anno diedi in testa ad un bulletto che sfotteva dal corteo. No, non ti chiamo, ti direi che t'amo. E che patetico. L'ho preso dai libri, ne ho letti troppi. Un giorno Henry tornò a casa con il diario di Laura Palmer. Lo davano con un settimanale. Avevo 7 anni e lo spulciai, curioso. Mi osservava leggere, non senza un pizzico di orgoglio. Ogni tanto domandava sulle mie letture ed io inventavo delle storie. Il libro sparì. In quei giorni amici di famiglia erano spesso a casa. Perché questi intellettuali del cazzo non tengono la bocca chiusa? Perché se la devono sempre cantare? Ma il libro dov'è? Non lo so, sarà da qualche parte. Ero arrivato al punto in cui lui se la scopava finalmente. Non ti chiamo, no. Sto impazzendo e non voglio sfigurare. L'ho già fatto, sai. Mi drogavo un sacco e mamma lo scoprì. Ci stavo così male che era venuta a saperlo. Non se lo meritava, però diavolo. A vestirmi così piccolo da povero Cristo. Minacciò il pusher con una pantofola. Questo mi rifilò, per dispetto, roba di pessima qualità, e mi prese a male. Non ti chiamo, ma sto piangendo. Vorrei fossi qui e non so come fare. Verrei lì, ma poi me ne andrei, e allora che vengo a fare? Ho male alla gola, per la stretta del cuore. Ecco, mi sto lamentando. L'ho preso da mia madre, però anche da mio padre, solo che lui lo ha sempre fatto in silenzio. Ho imparato a leggere sui visi troppo presto. La morte di Alda mi ha sconvolto. Mi chiedo se i poeti sono tutti pazzi. Non mi piace questa cosa. I vicini ti guardano sempre come uno che è stato in manicomio. Meglio se non ti chiamo. Tanto tu mi senti lo stesso, vero? Tu lo sai che sono giorni che non esco e sto dietro il PC. Lo sai, vero? Che poi entri su Facebook 5 minuti ed io sono lì. Lo so che lo sai. E mi dedichi le canzoni, anche se non mi hai visto mai. E mi dici cose belle, anche se non conosci la mia voce. Mi sai prendere, anche se non so se ti chiami realmente Alessia. No, che ti chiamo a fare? Devo disturbarti a quest'ora. Tanto fra un po' vieni su Facebook. Tra un po', vero? Non vorrei essere il solito lamentoso, ma i capillari degli occhi stanno schizzando. Ho le occhiaie, il mio pallore è fosforescente, ho i sintomi della tisi e perdo i capelli. Mia madre si fa i fatti suoi. Non entra più nella mia stanza, qualche volta di nascosto, ma non vorrei si preoccupasse. Povera donna, ne ha passate un sacco. Mio padre, un figlio drogato, quello che sta male, quello che ha un tumore, quello che la moglie non ci lascia nemmeno i preti, quello che è depresso, quello che è finito in carcere, quello che è disoccupato, quello che ha i disturbi, quello che è orfano. Povera donna, una vita violenta. Non vorrei sapesse di un figlio, oltre che drogato, innamorato di un link. Non vorrei prendesse il disturbo di scomodare i meglio dottoroni per farmi visitare. Non ho niente, mamma, no, non sono malato. No, mamma, non mi drogo più. No, non frequento più cattiva gente. No, lo so che papà non sta bene, lo so che non... Sì, che lo so, che non do un bel esempio a mio fratello. Sì, mamma, sì, tranquilla, solo un po' di insonnia. No, non le voglio le gocce. No, non c'è bisogno dello psicologo. Non voglio. voglio venire con te al santuario. No, non ho nulla da dire a padre Gerardo. Non voglio fare una passeggiata. Non voglio cambiare aria. Sì, sono sicuro. Non c'è bisogno che ti preoccupi. Sì, mamma, sto scrivendo per il giornale. Sì, anche il teatro. No, mamma, non c'ho la ragazza. Lo so, dovrei pensare a una famiglia. Lo so che desideri essere nonna. Sì, mamma, va bene, mamma. Ora lasciami, per favore, non ho la febbre. Ma non toccarmi, ti prego. Ti ho detto che sto bene. No, non è come l'altra volta. Mamma! Non ti chiamano. Non riuscirei a stare zitto. Non so tenere i segreti e non posso sfigurare. Anche qui c'è Facebook e siamo fidanzati. Anche se non so di che colore hai gli occhi, non so che accento hai, non so se ti chiami realmente Alessia. Ora Ernesto Rico, che non è qui presente fra di noi, ci manda a dire due cose. Uno, che si sente solo la mia voce, quindi magari quando parliamo a questo straordinario microfono ipertecnologico magari proviamo ad avere un po' la voce, lo so che è difficile, un po' più alta. Nemmeno lo sparo si è sentito. Non sappiamo, speriamo. Vediamo che cosa ci dice Ernesto. Ad ogni modo, Ernesto ci manda uno scritto che ora vorrei leggere a tutti quanti voi, che si chiama Calore Bianco. Cerco sulla pagina, trovo buco continuo, bianco, sempre inseguito, facile, non è possibile, utile, non è pensabile, calore sempre inseguito, ascolto il godere puro, fermo, il secondo giusto, calore bianco, bruciato bene, senza pena, senza peso, mi concedo il lusso del bacio, sprofondo nello specchio sporco finalmente. 30 gennaio 2012. Il microfono gira, fallo girare, si dice una volta, ora dovete girare voi. Sì, mi suggeriscono di gridare. Mi aggancio al mio amico Ernesto Rico, ne approfitto, speriamo che la mia voce si sentirà. Io sono Manolo e stiamo parlando a più riprese di questi intermezzi musicali possibili. E quando ho sentito di questo laboratorio, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato White Light, White Heat dei Velvet Underground, che nel quale Lou Reed e John Cale parlavano della loro passione numero uno in quel momento, che credo fosse l'eroina. E fu il primo disco che Velvet Underground fecero senza Nico ed Andy Warhol, che aveva una copertina rigorosamente nera. E mi veniva in mente proprio una famosa risposta di Andy Warhol a un'intervista nella quale gli chiedevano con che colore avrebbe descritto Velvet Underground, e lui disse white. E poi mi sono venuti in mente, visto che io non sono uno scrittore ma mi diverto a cercare di essere un interprete, più o meno questo è il mio mestiere, tutta una serie di libri che ho incontrato nel tempo che parlano di colori. Penso ai classici, non so, alla teoria dei colori di Goethe o alle osservazioni sui colori di Wittgenstein, però soprattutto un libro che ho avuto modo di incontrare poco più di 15 anni fa e che mi accompagna da allora costantemente, un libro dal quale non riesco a staccarmi, è un libro di Derek Jarman, che era un pittore, era un cineasta. E nel momento in cui stava morendo di AIDS e stava perdendo la vista, scrisse questo libro sui colori che si chiama Chroma, e per cui penso che abbia proprio uno spessore particolare questo libro. E il quarto capitolo si chiama Bugie bianche. Vorrei leggervi dei passi da questo, forse se mi è permesso, se c'è il tempo, a più riprese, perché il suo modo di scrivere sono piccoli paragrafetti, per cui a volte si trova a citare altri autori, a volte si trova a fare delle riflessioni che è veramente straordinarie, secondo me. Bugie bianche. Il primo fra tutti i colori fondamentali è il bianco, anche se taluno non vuole ammettere che il bianco e il nero siano colori, essendo il primo una sorgente o un recettore di colori, e il secondo l'assenza totale degli stessi. Ma non possiamo ignorarli, dacché la pittura non è che un effetto di luce ed ombra, un chiaroscuro. Dunque prima viene il bianco, poi il giallo, il verde, il blu, il rosso e infine il nero. Si può dire che il bianco rappresenti la luce senza la quale nessun colore è visibile. Questo è Leonardo da Vinci, da Consigli per gli artisti. Festeggiamenti al Porter's Bar, 1906. Conservo ancora gelosamente una cartolina dalla quale copiai e dipinsi una serie di quadri quando ero adolescente. Fanciulle eduardiane in lunghi abiti bianchi, con cappelli a paralume e ombrellini a frange, ariosi come piume di cardo spinte fuori dal XIX secolo. Ma chi erano queste creature? Sembravano così solenni sotto il pavese sventolante, all'orizzonte l'altalena e la baraonda della vita. Non so dire che cosa trovavo così seducente in queste ragazze dagli abiti bianchi nei parchi, sui pontili, sul lungomare, o a sguazzare nell'acqua con le sottane rimboccate come nei quadri di Wilson Stier. Bianco fine secolo, forse ispirato dal ritratto monocromatico di Whistler, La fanciulla bianca. Gettate in faccia al pubblico uno schizzo di vernice e lo acchiapperanno. Eccole qui ancora, sedute in giardino su bianche panchine, a sorseggiare tè da bianche porcellane, dono dalla Cina, osservando una cartolina spedita da un fratello maggiore che sta scalando il Monte Bianco. E intanto sognano bianche nozze. Come vi dicevo, se poi avrò la possibilità, voglio leggervi qualche. Vi ricordo sempre che siete su Transizione di Fase, web radio indipendente in diretta dalle officine Babilonia di Cosenza. Stiamo trasmettendo il laboratorio della coessenza, il laboratorio di scrittura creativa ed interattiva dedicato questa volta al colore bianco. Vediamo Stefania che si avvicina. Che laboratori di scrittura creativa sono laboratori di ascolto. Io volevo leggervi qualche verso. A me il bianco, quando ho pensato al bianco, mi è venuto in mente immediatamente la spuma del mare d'inverno, la neve e l'idea di purificazione, perché sia il mare in burrasca che la neve arrivano per purificare. E quindi insomma c'ho qualche verso sul mare, sulla neve, tutto il bianco. Un cupo grigiore, in alto, libera gelidi cristalli di informi pesi e dimensioni. Nel ritmo della discesa la melodia prende vita. Leggiadra si posa sulle brutture di defattezza umana e un bianco strato, dono divino, ricopre le nere colpe di un popolo falsamente civile e sottomesso. Trasfigurazione. Il mare in burrasca tornerà ad essere calmo, le sue paurose onde plasmeranno scogli e spiagge e il mutamento che non si afferra nel suo divenire ma lo si incontra nel vivere del vecchio morire. Mutazioni. Da lontano giungi, sospesa nell'aria, accarezzare corpo di donna, rendendo il suo sapore magico e voluttuoso in armonia con la divina coscienza che origina il tuo fluire. Salsedine. Sulle sponde del Tirreno invernale, il silenzio umano e la voce delle onde si congiungono nella melodia della vita che scorre. Correnti. E E vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Transizione di Fase dalle Officine Babilonia. Per chi è in ascolto dalla radio, vi ricordo che potete inviare i vostri testi alla mail tdfxlaboratorio@gmail.com e, come abbiamo fatto in precedenza, leggeremo qui dalle Officine Babilonia i testi che ci arriveranno in diretta, appunto mi suggeriscono. Ora a questo punto vorrei leggere un piccolo fogliettino, insomma, scritto, diciamo così, che insomma, vabbè, non dico altro. Fontana chiara, un poco dolce e un poco amara, la canzone risuona nella stanza e in loop va e viene. Quei due se ne stanno sotto le coperte, solo plaid, di certa origine cinese che pizzica la pelle come formiche invisibili. Le lenzuola bianche stanno da qualche parte, ma non è consigliabile avvolgersi in esse, da troppo tempo, rimangono lì, a cambiare colore. La polvere, solida, immobile e fissa nella penombra della stanza. Qualche odore di zucchero, caramelle e fili elettrici, stretti come alberi di bosco, abbracciati a sentire il calore, ascoltare il cuore battere dell'altro, sentire d'improvviso stringere la mano, accarezzarla, stringerla. Fontana chiara, un poco dolce, un poco amara, ancora la canzone. 0 e 1 vuote, pieno, presenza e assenza, un doppio, specularmente opposto, coppia di generi opposto, necessari al dono, allo scambio, alla comunicazione. Che pensi? Chiede. Più che pensare sento, oppure a te, agli occhi, risponde. Ancora il loop, le coperte che pizzicano, le lenzuola bianche per sé, chissà, perse chissà dove. La penombra di polvere solidificata. La mano che accarezza l'altra la stringe. Fontana chiara, continua. Che c'è? Chiede. E ha gli occhi rossi, sorride, carezza i capelli, sorride. Sono felice. Occhi rossi, sorriso, occhi dolci. Ascoltare il battito, respiro, pelle e calore, incroci come una serie di informazioni che veloci viaggiano smembrate in innumerevoli pacchetti da assemblare e decodificare. È tardi l'ora del saluto. Abbracciati di fronte allo specchio, a sbirciare il riflesso per osservare che effetto fa la visione di loro, abbracciati in un bacio. Cosa pensi? Chiede. A te, risponde. Sto traslocando, dice. Luce bianca. Una transizione di stato. Non è altro che quello. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Transizione di Fase e potete inviare i vostri scritti dedicati al colore bianco e noi li leggeremo qui dalle Officine. Il bianco si estende alle nostre spalle. È forse nato col Big Bang? Era bianco lo stesso Bang? In principio era il bianco. Fu Dio a crearlo, primo fra tutti i colori. E questo restò un segreto finché Sir Isaac Newton si mise a sedere in una camera oscura alla fine del XVII secolo. La prova per esperimenti. La bianchezza e le tonalità grigie tra il bianco e il nero sono forse composte da tutti i colori, come la bianchezza della luce del sole è composta di tutti i colori primari combinati in una debita proporzione. Da un buchetto tondo in una persiana chiusa il sole splende in una camera buia, la sua luce essendo rifratta da un prisma che proietta il suo spettro colorato sul muro opposto. Io tenevo in mano un foglio bianco rivolto a questa immagine in modo che da laggiù vi si riflettesse la luce colorata. Isaac Newton, ottica. Volgendosi al passato, attraverso il prisma di Sir Isaac, è possibile incontrare Osiride, dio del Nilo bianco, dio della resurrezione e della rinascita, con la sua corona bianca e i bianchi sandali, privo di colore. In quei tempi il bianco era incolore, qualcosa che è difficile immaginare dopo Newton. Forse lo scettro verde che il dio tiene in mano per annunciare il ritorno della primavera, come il bucaneve, ci parla di questo. Bianco è il mezz'inverno inerte, candido e casto come il bucaneve, il Galantius nivalis, le campane di candelora che decorava le chiese il 2 di febbraio, la festa della purificazione della Vergine. Ma non portate in casa quei bucaneve, vi porteranno sfortuna, potreste anche morire, perché il bucaneve è il fiore dei morti, somiglia a una salma nel suo sudario. Il colore del lutto è il bianco, ma non nell'Ovest cristiano, dove è il nero, Eppure l'oggetto del lutto è bianco. Chi ha mai sentito di un cadavere avvolto in un sudario nero? Se fai girare una ruota colorata ad una certa velocità, diventa bianca. Ma se invece assembli i pigmenti, comunque cerchi di comporli, otterrai soltanto un grigio sporco. Che tutti i colori mischiati insieme producano il bianco è un'assurdità che la gente credulona è stata abituata a ripetere per un secolo contro l'evidenza dei sensi. Johann Wolfgang Goethe, Teoria dei colori. Luce nella nostra oscurità. Mentre una ruota gira si forma un mandala. Così si vede che gli dèi sono bianchi. Secoli prima che San Giovanni inventasse il paradiso cristiano, con l'esercito celeste in bianco adorante, l'innocente, i greci e i romani celebravano i Saturnali, il 17 settembre, dicembre, scusate. Il malinconico Saturno, come Osiride, l'imminente Cristo, era un dio in bianco, adorato in abiti di culto bianchi con un richiamo al verde di Osiride nelle foglie di palma che i fedeli tenevano in mano. La festa finiva al primo giorno dell'anno nuovo, quando il console, con ornamenti bianchi e alla guida di un bianco cavallo, celebrava il trionfo di Giove sul Campidoglio. Sogno un White Christmas. Questa canzone non poteva essere cantata che nel sud della California, intorno a una piscina. Qui da noi, alle prime avvisaglie di neve, le ferrovie si bloccano, le strade diventano impraticabili e anche i marciapiedi diventano pericolosi, col sale che distrugge le scarpe. Natale, il parto di una vergine, bianco cotone, barbe di lana e un immenso scambio di doni inutili. Il barometro della mente precipita verso la depressione. Un bambino che tendeva alla bontà e invece portò il contrario. Paura, avversione, folli predicatori americani che ti urlano nelle orecchie. Un salvatore che non salvò se non le sue illusioni e certamente non i tacchini del bianco Natale, bolliti vivi dopo un anno trascorso ad aspettare ammassati. Ecco il bianco Natale che sognano. Intanto salutiamo gli amici che ci seguono dalla chat, soprattutto Gigizu che ci chiede perché utilizziamo Gmail. La utilizziamo perché ci siamo sbrigati a fare questa casella. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Transizione di Fase dalle Officine Babilonia, laboratorio di scrittura, di ascolto, diceva prima Stefania, dedicato al bianco. Chiunque voglia mandare dei materiali, siano essi inediti o come quello di Manolo, insomma, può farlo e li riproponiamo poi sul sito tutti insieme. Non abbiamo solo una new. Intanto vi ricordo che qui siamo con un fantastico braciere e l'odore delle bucce di arancia si diffonde all'interno delle officine di questo spazio occupato che speriamo possa vivere di lunga vita. E ora intanto ecco un'altra lettrice di poesie di Stefania. Sì, scusa. Questa legge. Problemi tecnici. Spazzatura tra la spuma bianca e la poesia sfuma in un termine di moria, disincanto. Il bosco nelle quattro stagioni, le fasi della natura. Il ciclo della vita, tutto affinché il ghiaccio si sciolga per diventare acqua, fonte di vita e di genesi, l'umida malinconia di nebbiosi ottobri e le calde esplosioni della primavera accompagnano il miracolo della rigenerazione perenne, il bianco neve nel suo divenire, trasparenza, acqua. Dopo il gelo dell'inverno, i primi tepori della primavera. Dopo il torrido dell'estate, la frescura dell'autunno è natura. È la vita di ognuno di noi che il ciclo armonico delle stagioni esorti all'equilibrio interiore nell'osservarlo. Basta chiudere gli occhi e ricordarne i profumi, i sapori, i suoni. È un semplice invito alla natura, al sogno. è un semplice messaggio d'amore. Oh, spirito libero, vaga tra i boschi e lì mi troverai, meravigliosa e imperfetta come natura. Ode alle quattro stagioni. Bellissimo, Stefano, questa mi è piaciuta moltissimo. C'è qualcun altro che vuole leggere qualcosa? Il bianco non è il colore di Carlo, mannaggia, non ci speravo. La radio. Sì. No, stavamo dicendo che come abbiamo detto all'inizio, è la prima volta che ci esprimiamo nei laboratori, eh? La seconda. Io veramente la prima me la sono persa. Ah, me la sono persa. Scusate, allora. Perdonatemi, per me è la prima volta. E in effetti un po' di imbarazzo c'è, nel senso, non imbarazzo, però è come se ci fosse un non un intruso, però comunque qualcuno a cui non siamo abituati. È come se sì, insomma, è un po' particolare, però insomma, ci rendiamo conto che è una cosa anche carina, è una cosa molto carina e è importante per coessenza. Però ecco, ci stiamo riflettendo, nel senso che è un po' vabbè, insomma, è un'esperienza comunque strana per noi, quindi sì, insomma, ci sono queste pause che non riusciamo a colmare, queste risa, ma perché insomma è anche simpatica la situazione. Detto questo, non so se qualcuno vuole leggere. Delfina, niente, tu, no? No, non ti appesantisci, Mano. Allora, ridò la parola a Manolo. È carino, Mano, quello che stai leggendo, grazie. ...1919... Il mondo è in lutto. Casimir Malevich dipinge bianco su bianco, un rito funebre per la pittura. Mi sono trasformato nel grado zero della forma e mi sono sforzato di uscire dalle macerie stagnanti dell'arte accademica. Ho fatto breccia nel paralume blu delle limitazioni coloristiche e sono uscito nel bianco. Ho infranto la protezione del divino, l'ho strappata e facendone un pacco l'ho colorata e annodata. Veleggia avanti. Il bianco, libero baratro infinito, ci precede. Malevich. La chimica della pittura che Casimir impiegò per il suo famoso quadro era vecchia quanto il pigmento. Dubito che usasse il titanio, appena scoperto. Forse impiegò l'ossido di zinco, un colore appena 100 anni prima, ma più probabilmente usò ossido di piombo, che proveniva proprio da quell'antichità che disprezzava. Tutti i bianchi, ad eccezione dei macinati per la base di pastello, come il gesso, sono ossidi di metallo. Il bianco è metallico. La biacca, leggeri foglie di piombo ossidati in cumuli di sterco, producevano l'intenso impasto bianco sul quale Rembrandt posava le teste dei suoi modelli, le plumbe e gorgiere, pesanti d'amido e di decoro. Un colore derivato con procedimento alchemico dal piombo è bianco. È infatti chiamato bianco piombo. Questo bianco piombo è molto brillante, si presenta in piccoli grumi che somigliano a piccoli calici o bicchierini. Più polverizzate questo colore, più diventa perfetto e si adatta bene ai pannelli. È anche impiegato sui muri, ma per quanto possibile evitate di farlo, perché col tempo diventa nero. Cennino Cennini, il libro dell'arte. Quando il bianco su bianco di Casimir diventerà nero su nero. Plinio prescrive: per ottenere lo sfondo di base su cui dipingere si decomponga il piombo in recipienti d'aceto. Il piombo bianco è molto tossico e se il pittore non lo usa con saggezza provoca malattie. Roma si avvelenava versando il vino in vasi di piombo. La bizzarria dei pittori è la stessa dei pazzi. Risiede nella chimica della loro arte. Olimpio d'Oro ci avverte che il piombo è indecente, è dominato dal diavolo a tal punto che chi vuole impararne l'uso impazzisce e muore. Ossido di zinco, il bianco cinese nasce come un fumo biancastro, non è velenoso e dalla metà del secolo XIX viene adottato come pigmento. Il vapore di zinco, derivato dal metallo fuso, va in combustione in atmosfera ossidante alla temperatura di 950 gradi centigradi, producendo fumi di ossido bianco. l'ossido di zinco e d'un bianco freddo e puro. Il più bianco dei bianchi è il titanio, che possiede il più grande e riposto potere tra tutti gli altri bianchi. È molto stabile, resistente al calore, alla luce e all'aria, ed è il più giovane dei bianchi, essendo stato introdotto dopo la Prima Guerra Mondiale. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Transizione di Fase, state ascoltando in diretta da Cosenza il laboratorio di scrittura della coessenza dedicato al colore bianco. Vi ricordo che potete ancora inviare i vostri scritti alla mail di Gmail, lo ripetiamo per chi ama questa forma di comunicazione, tdfx laboratorio, che sarebbe x, sta per @gmail.com. Salutiamo intanto tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, vediamo infatti dalle statistiche che siamo un buon numero e speriamo di crescere sempre più. Intanto vediamo se qualche altra persona vuole leggere qualche brano, e intanto niente musica, ma potremmo anche parlare di quelle che sono le varie canzoni dedicate a questo colore. Per esempio pensiamo a Battiato, questa famosa era del rinoceronte bianco, che se non arrivi, del cinghiale, mi correggono, e vabbè, sono un po' squagliata perché, come potete notare, non mi vedete voi dalla radio, ma qui potete vedere che sono con un cellulare che sto cercando di caricare una foto, sto facendo 30 cose. E Manolo ci ricorda che questo animale è completamente estinto, una notizia di qualche mese fa. Ci rattrista molto questo fatto. Intanto cerchiamo di ravvivare un po' il fuoco. Ce ne sono rinoceronti bianchi. Io dicevo uffici del papilone nel parco. No, Quentone. È qua, è normale. Stella cometa c'è sempre. Cioè, io. Cioè, non è qua. Siamo alla stella cometa. C'è un. Ci sono tanti soltanti come si dice no abilità non è che abilità, no. No, ci sono tanti come si dice, c'è tante cose, allora io dico no, ci sono tanti, io mi dispiace per me non, cioè non deve essere tutte uguali persone, perché a me non buono sessione stella cometa come si chiama qua, Peppa o comunque si chiama questa officina Rialzo, no, non è buono così, deve siamo tutti uniti, questo che mi dà fastidio, capito? Questo è importante, deve essere tutti, già siamo in un posto non è buono, non siamo d'accordo, già, capito? Non è una cosa bella, capito? Questo io penso, essere tutti d'accordo, capito? Non c'è il capannone, quello c'è l'altro capannone, quello c'è l'altro capannone, cioè non è una cosa bella, capito? Deve essere tutti uniti, questo è tutto, questo è okay. Cioè non è una cosa fatta bene, a parte che non è di nessuno questi capannoni, soprattutto. Ristorante filippino che hanno aperto qui vicino. Io non ho portato niente, però questa cosa del bianco mi ha sollecitato un ricordo che adesso vi voglio comunicare in un minuto. mi ha ricordato una scena che mi è veramente successa tanti anni fa insieme a Raffaele De Luca. E allora noi avevamo deciso di andare a Milano per incontrare i poeti famosi, quelli che scrivono per Mondadori, che scrivono per l'Almanacco dello Specchio, di cui noi avevamo letto tante cose. Volevamo però conoscerli personalmente, volevamo vedere se erano come noi o se invece ci avevano l'aureola o penne dorate. E siamo andati, veramente li abbiamo conosciuti, poi sono stati anche giorni molto divertenti. Raffaele, fra l'altro, aveva una particolarità: soffriva di un'insonnia straordinaria, praticamente non dormiva mai. Noi l'avevamo alloggiato all'ostello della gioventù e ricordo che ogni volta che mi svegliavo lui era sempre sveglio, che fumava a letto, praticamente quella settimana non ha mai dormito. E poi però quando andavamo dai poeti, insomma, secondo me un po' sonnecchiava, perché erano tutte persone che praticamente dicevano sempre le stesse cose, non facevano che parlare male l'uno dell'altro, e così il gossip, il pettegolezzo era il loro sport preferito. E c'era un distacco nettissimo fra le cose che scrivevano, alcune erano anche belle, scritte bene, e invece poi così, insomma, la loro personalità, come si presentava, ci sembrava sempre molto poco umana, molto costruita, quasi tutti, con qualche piccola eccezione. E quindi poi ci siamo messi a camminare per le strade di Milano e a un certo punto finalmente è calata la nebbia, cioè quella nebbia, insomma, che doveva esserci, invece non c'era mai. Soltanto l'ultimo giorno è calata questa nebbia ed è stata una nebbia fittissima, per cui proprio non si vedeva più assolutamente niente, cioè è cresciuta nel giro di pochi minuti. Poi avremmo scoperto solo dopo, quando si diradò, che noi in realtà eravamo nel centro di una piazza e c'erano le macchine che ci passavano intorno, ed è stata pura fortuna se nessuno ci ha messo sotto, perché noi abbiamo continuato a camminare lì e questa nebbia ci ha consentito finalmente di volgere finalmente l'attenzione verso noi stessi, dall'esterno verso l'interno, e quella nebbia è stata veramente i poeti che abbiamo incontrato a Milano. E qua stiamo commentando questa ultima, questo testo volante, potremmo dire, insomma, un ricordo sul bianco, un colore che devo dire è abbastanza emblematico. Io personalmente, diciamo che aborro un po' questo colore, ve lo dico chiaro, perché è un po' inquietante secondo me. Magari chissà, la prossima volta sul nero avremmo forse qualcosa in più da dire. È emblematico il fatto che nessuno abbia parlato di abito bianco in questi scritti, che però, esatto, giustamente notiamo che qui c'è un costume fatto da Vera, una ragazza che collabora, fa parte delle officine, un costume che è stato utilizzato per una messa in scena qui alle officine ormai un anno fa quasi, un costume fatto di buste, però è molto bello. A noi, mi sento un po' la conduttrice di questa cosa, mi fa impressione. Però la musica non c'è, quindi niente, o canto io con questa bellissima voce che ho in questo momento, o niente. Intanto vediamo, dalla chat non ci dice niente nessuno, intervenite numerosi, inviate i vostri testi. E sì, ci suggeriscono, ci salutiamo? Quindi sì, io direi che per questa volta è tutto dal laboratorio bianco, però Stefania conclude giustamente, perché non fate parlare solo me che mi sento un po' una cretina. No, volevo giusto questo laboratorio bianco, questo colore allora della purezza e della purificazione, anche per un sacco di culture questo bianco inquietante, però si sta rivelando, allora innanzitutto questo laboratorio dimostra ancora una volta che nessun laboratorio della coessenza riesce in alcun modo ad essere uguale a un altro, cioè non c'è uno schema prestabilito, cerchiamo di proviamo a immaginare neanche delle regole, perché le regole non ci piacciono, se non per... però cerchiamo di seguire degli schemi che però alla fine saltano sempre in un modo o nell'altro. Questa è la cosa meravigliosa. E quindi forse veramente ci troviamo a vivere questo laboratorio. Secondo me è anche bello parlarne in diretta di queste difficoltà che ne escono fuori in sottovoce, perché forse probabilmente questo, secondo me, un po' dimostra la storia della coessenza. La storia della la coessenza nasce in un cerchio di persone, in un certo qual modo tutti un po' dei disadattati sociali, vorrei dire, che intorno a un cerchio piano piano si sono aperti come dei fiori che sbocciano piano piano, si arriva con timidezza, non si porta niente, il giorno dopo fai leggere il racconto a qualcun altro. Oggi io per esempio leggo le cose che scrivo, che è una cosa che ho imparato a fare nel corso degli anni, e come me tante altre persone, Elena, Carlo, tutti quelli che abbiamo seguito questo percorso di crescita, perché alla fine i laboratori sono questo, un percorso di crescita. La cosa un po' strana per noi è che sembra, rispetto magari alle altre volte, sembra che stiamo parlando per il microfono piuttosto che magari in cerchio. Noi facciamo questi laboratori in cerchio per cercare di mantenere un cerchio di energia, ma mi sembra che questa energia stasera si stia mantenendo abbondantemente, non ci sono dei vuoti che si tendono, e quindi fa un po' strano per noi sta cosa di sto microfono. Poi ci dobbiamo spostare, venire qua, ed è bello forse anche rendere partecipi a chi non può venire di questa, non dico difficoltà perché non è una difficoltà, è una sperimentazione di questa cosa un po' strana di questo laboratorio bianco. Probabilmente al prossimo ce ne sarà una nuova, però ecco, io volevo dire questo, non tutto quello che ho detto, ma volevo dire soltanto che i laboratori della coessenza non hanno un orario, hanno un orario di inizio ma non hanno un orario di fine. Nel nostro percorso abbiamo fatto laboratori di 4, 5, 6 ore, abbiamo fatto dei laboratori che sono durati anche un'ora, rispetto ai contenuti e ai materiali che si portano e che si arrivano. Abbiamo letto tutto quello che ci siamo portati, non ne arrivano altri, abbiamo letto tante cose, io penso che siamo tutti quanti abbastanza soddisfatti e scegli poesia, come dicono in Brasile. Manolo, vai, va. No, e fai bene a insistere. Sì, Mustafa, così rispondo a Mustafa prima che mi ha detto ti piacciono i bianchi, eh? No. Ascolta quello che tu hai detto ciatine con lui bianco. Mo ti leggo. Ascolta no. Ah, ecco, appunto. Ah, esattamente, appunto. Sì, non mi ricordavo bene, però era quello il senso, insomma. Adesso ti... Allora ti leggo una cosa. Il bianco esclude, è opaco, non puoi vederci attraverso. Il folle potere bianco. Sono nato in terra d'Albione nel 1942, giovane rampollo bianco di ceto medio, dietro le spettacolari bianche scogliere di Dover che ci difesero dal nemico col cuore nero. Mentre mi battezzavano, i bianchi cavalieri combattevano una battaglia aerea tra le nubi cumuliformi del Kent. A 4 anni mia madre mi portò a vedere il mondo, la grande bianca torre di Londra, con non tinta a calcina, ma invece grigia e fuliginosa, la White Hall, dove il palazzo del Parlamento era anche più nero. Imparai rapidamente che il potere era bianco. Anche i nostri cugini americani avevano la loro casa bianca, concepita come i marmorei monumenti imperiali dell'antichità. Il marmo era costoso e i vivi, in segno di rispetto per i morti, ricordavano il loro trapasso con monumenti di marmo. Uno dei più appariscenti è a Roma, il monumento a Vittorio Emanuele e al Risorgimento, un edificio di pessimo gusto che i romani hanno soprannominato la macchina da scrivere. Al mio 5° compleanno mi trovavo di fronte a questo bianco elefante soggiogato da timore reverenziale. Dopo un breve soggiorno in Italia, tornammo a casa. Avevo 6 anni, quando la mia educazione incominciò sul serio alla Hurdle House, in cima a una scogliera dello Hampshire con la vista sulle Needles. Dietro l'istruzione scolastica degli anni 50 c'era il grande, imperiale fardello dei bianchi. Noi, privilegiati della bianca speranza, dovevamo preoccuparci, forse addirittura sacrificarci, a favore dei paesi colorati in rosa sui nostri atlanti di scuola media. Ciao a tutti, io non avevo portato niente, però seguendo la serata mi sono venute, ultimamente mi sono messo schizzato due parole, le volevo leggere a tutti. Una sola lampada illumina a giorno l'intera sala, penzolando dal soffitto. Sotto di essa, nel braciere, il carbone imbiancato dal fuoco riscalda e profuma una serata di gennaio che odora di neve. Tutto intorno, in un cerchio vorticoso di colori e parole, un gruppo di persone agita fogli bianchi rincorrendo silenzi e suggestioni. C'è sempre del bianco, nel fondo, oppure tutto intorno, anche se tutti siamo attratti soprattutto dai colori. Il bianco, come il silenzio, va contemplato, non solo, per forza, riempito. Mi fa l'editore, non disperdiamo questi materiali, perché già... No, perché quest'anno ad aprile esce l'antologia dei racconti sugli anni Ottanta, i primi dei quali abbiamo letto 6 anni fa in un laboratorio. Ci mettiamo 6 anni per pubblicare un libro, siamo rovinati. No, però ecco, è stato uno dei primi racconti che era di Astolfo, è stato letto 6 anni fa, che l'aveva recuperato Giuliano Santoro. E intorno a questo racconto adesso ce ne sono altri 20, 22, 23, non ricordo esattamente qua, uno per ogni lettera dell'alfabeto, e verrà fuori questa collezione, questa antologia di racconti sugli anni 80 a Cosenza, l'alfabeto cosentino degli anni 80. Quindi cose belle, come abbiamo letto stasera, sentito, vale la pena conservarle. A proposito, io scherzavo prima, Facebook, questo racconto di Emilio Nigro finirà anch'esso, insomma, in un'altra antologia apposita, e penso che il direttore della collana sui racconti erotici sarà d'accordo con me. Insomma, adesso bisogna arrivare alla terza creatura, perché già sono usciti 2 tascabili, bisognerà pensare a una forma per la terza antologia di racconti, no? Nella Coesseros, tutto qua, insomma, non disperdiamo quello che leggiamo e che scriviamo. Sì, e poi vi ricordo anche che sul blog che utilizziamo come punto di riferimento per la radio, ci saranno tutti i podcast, cioè avremo online tutte le registrazioni di questi laboratori, quindi speriamo che anche questo possa essere un materiale utile per Cosenza, utile soprattutto alla diffusione della letteratura che viene da Cosenza, perché insomma è ora con la radio un po' da tutte le parti, quindi speriamo bene. Io vedo i volti di tutti quanti che mi guardano con una espressione interrogativa, anche minacciosa, mi suggeriscono, quindi non ci resta a questo punto che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo laboratorio di Cosenza, che chiaramente non sappiamo quando sarà, ma sarà a febbraio per un altro colore, sempre con transizione di fase, sempre con Cosenza. Grazie a tutte le persone che sono intervenute inviando i loro scritti, che ci hanno ascoltato e che sono venute qui alle officine Babilonia, che rimangono sempre un luogo aperto e disponibile alle varie sperimentazioni. Sempre Nivoli ci suggeriscono. Magari la prossima volta lo faremo su i Nivoli, non il Nero, ma i Nivoli. Arrivederci a tutti e buon ascolto sulle frequenze di Radio Transizione di Fase.